l'elemento più grave, secondo me, che rende non libera l'informazione e non liberi gli informati. Perché un giornalista dovrebbe essere libero, questo è il problema. Cioè, dovrebbe essere libero. E in questa terra, per essere libero, dovresti, come dire, appunto, guardare questa terra al 100%. Mentre una informazione divisa etnicamente, in un'informazione divisa etnicamente, ci sono almeno i giornali forti, che sono dei megafoni di un gruppo linguistico. E all'interno del gruppo linguistico sono megafoni dei poteri dentro il gruppo linguistico. Perché se tu ti fai megafono di un gruppo linguistico, quindi se assumi una funzione politica, no? C'era un editore, che non vi dico, di un quotidiano che non vi dico, che però diceva: gli italiani non hanno nessun partito di raccolta, almeno hanno un giornale di raccolta. Ecco, che il Dolomiten sia il giornale di raccolta, il Tagblatt der Südtiroler. Questo che è un'illusione, perché il Dolomite è un giornale innanzitutto di chi è la proprietà, del suo direttore, e che poi è lo stesso, è il fratello, quindi insomma non è che c'è tanta distanza, no? Allora, se il giornalismo si riduce a fare il megafono di un gruppo linguistico, diventa un giornalismo non solo meno completo, eccetera, ma diventa quello che mi sta a cuore, un giornalismo meno libero, meno libero. È un giornalismo, rischia di essere un giornalismo che scatena le guerre tra poveri col assoluto rispetto invece dei poteri. Dei poteri. Io sono stupefatto questa settimana nel vedere una cosa. Allora, la FF, che è un giornale un po' di traverso, ha pubblicato una storia che secondo me è una bomba. E qual è la storia? Chi non ha letto l'FF non lo sa, perché nessun quotidiano l'ha ripresa, né di lingua italiana né di lingua tedesca. La storia è questa, va bene? Che c'è stato un affare di diversi milioni di euro su immobili distribuiti in tutta Italia dell'Enel, dismessi dall'Enel. Questi immobili sono stati acquistati con una catena d'acquisti. Alla fine dalla Sparim, che è la società immobiliare della Cassa di Risparmio, il cui presidente si chiama Siegfried Unterberger, va bene? E questa Sparim l'ha comprata da un'altra società che a sua volta l'aveva comprata dall'Enel, quindi c'è l'Enel che vende, c'è una società X che compra e poi c'è la Sparim che compra dalla società X. Ci sono un paio di particolari. Uno, che questa seconda vendita da questa società X alla Sparin, che usa soldi di tutti, è avvenuta 20 giorni dopo. Cioè, il primo novembre la società X, adesso non mi ricordo, ma basta vedere la FF di questa settimana, compra gli immobili dell'Enel. Il 20 novembre la Sparin compra gli immobili dell'Enel, trattandosi di diverse decine di milioni di euro. Credo che gli occhi sugli immobili dell'Enel la Sparin ce l'avesse messi prima, no? È che dice. Secondo, questa società è una società con sede a Milano ma con presidenza sudtirolese. Terzo, a 20 giorni di distanza, questi immobili vengono comprati dalla Sparin a euro 18 milioni in più di quanto la società X l'ha comprati dall'Enel. Quindi 18 milioni in 20 giorni. Quarto punto, il presidente della società X è socio in affari in diverse società, in particolare nei marmi di Lasa, con l'ingegner Siegfried Unterberger. Io giovedì scorso mi sono letto sta storia, vedo che anche Antonio se l'è letta perché ride come al solito, come usa far lui sotto i baffi che non ha. E ho detto, domani sui giornali, sui quotidiani ci sarà la botta. Niente, niente, né domani, né dopodomani, né il giorno dopo, niente, è passata una settimana e nessuno l'ha ripresa. E e nessuno l'ha ripresa, no? E nessuno l'ha raccontata, perché poi, insomma, un settimanale ha una tiratura limitata, è quando entra nei quotidiani e nelle televisioni che la cosa funziona, no? Nessuno l'ha ripresa, giovedì prossimo è annunciata una seconda puntata, vediamo se dalla seconda puntata qualcuno si incuriosisce. Questo per dire, insomma, che la missione, secondo me, la missione del giornalista, forse qui sono un po' in disaccordo con Paolo, non è una missione specifica a questa terra. È specifica questa terra, diciamo. Ma la missione del giornalista è essere libero. Essere, diciamo, la sentinella dei cittadini verso i poteri e informare criticamente. Questo è il mestiere del giornalista. Qui, se tu... qui il fatto che l'informazione sia divisa e che ogni testata si pensa come la portabandiera del proprio gruppo linguistico rende più difficile e per molti versi quasi impossibile avere un'informazione libera, per cui noi ci troviamo a assistere spesso a battaglie di carta che coprono le vere battaglie che non sono quelle che noi leggiamo sui giornali, ma sono altre che muovono centinaia di migliaia di euro, che muovono i poteri veri e di cui noi cittadini siamo completamente esclusi. Ecco. Quindi il compito, la missione dovrebbe essere la libertà, l'indipendenza, la criticità. Ecco. Diciamo che non siamo proprio in disaccordo. Ecco. Intendevo soprattutto dire che una realtà appunto specifica, particolare come l'Alto Adige, mette in rilievo ancora di più che non altre realtà quello che è poi lo specifico del giornalista ovunque. E questo, se vogliamo, è una delle ricchezze della terra in cui noi viviamo, no? Cioè costringe in qualche modo a porsi i problemi, ad affrontare determinati problemi. Poi non sempre ci si riesce. Torniamo un po' alle cose che racconti. Abbiamo ancora molto tempo? È giusto quell'orologio laggiù? Perché... Ok, scusate. No, ho il brutto vizio di andare in giro senza orologio, per cui... Se vogliamo possiamo anche magari sentire se c'è qualche... Sì, sì, se mentre parliamo qualcuno vuole alzare la mano ne terremo conto. Nel frattempo... ritorno un attimo al libro. Vedo che secondo me in questo libro sono toccati vari aspetti della nostra realtà, della sua storia, del suo presente, eccetera. Sia aspetti simbolici, sia aspetti sui quali si riflette o sui quali non si riflette abbastanza. Ecco, alcuni simboli molto concreti, la vittoria, il monumento alla vittoria, eccetera. Alcuni concetti, quello di minoranza, minoranza linguistica, minoranza culturale di altro genere, eccetera. Ecco, su alcuni eventi Riccardo Dello Sbarba prende posizione. Ne cito due. Uno è, perché sono sempre attuali, tutto sommato, anche grazie agli anniversari. Uno è l'accordo di Parigi, sul quale lui dà una valutazione ben precisa, e l'altro è diciamo, l'uso della violenza per fini politici, in altri termini la stagione delle bombe e l'influsso che gli attentati dinamitardi hanno avuto o non hanno avuto sul cammino dell'autonomia. Ecco, puoi dirci qualcosa su questi due aspetti? Sì, che poi è un aspetto solo, perché questa cosa dell'accordo di Parigi è l'unico testo che ho scritto da presidente, diciamo, perché per il resto ho scritto da giornalista prima di diventare presidente o di diventare consigliere provinciale. Questo invece è il discorso che ho tenuto in consiglio per l'anniversario dei 60 anni dell'accordo di Parigi. C'era stata una certa tensione tra me e un altro presidente, quello più importante. perché diciamo più che ci si avvicinava, più che ci si allontanava da Trento e ci si avvicinava a Innsbruck, e meno l'accordo di Parigi veniva festeggiato a Innsbruck. Un anno, io il mio collega gli ho detto, ma si chiama Helmut Mader, gli ho detto, ma tu hai studiato, fai qualcosa? E lui ha detto, ma un paio di parolette le dirò prima di aprire il consiglio, no? Invece qui noi avevamo, io avevo spinto per fare diciamo una seduta solenne, e lì ci fu un po' una discussione, perché l'altro presidente disse non c'è niente da festeggiare, e io dissi no, cavolo, c'è da festeggiare, è la pietra miliare dell'autonomia. Voi sapete che su questo c'è un po' di discussione. L'accordo di Parigi non è perfetto, per esempio si è dimenticato dei ladini, adesso invece si ricordano di se stessi anche da soli. Però certamente l'accordo di Parigi io lo vedo come diciamo la sostanza di cosa è esportabile da questa terra, no? Io ho fatto prima di diventare consigliere provinciale anche dei lavori come giornalista in Kosovo, no? E quando tu vai a esportargli la loro l'autonomia, loro ti guardano, tu gli spieghi un po' come funzionano tutti i meccanismi, e poi sono venuti dopo, loro ti guardano e dicono vabbè, però ci vuole i vostri soldi, no? Per far funzionare tutta questa macchina. Però quando gli dici la sostanza dell'accordo di Parigi, dicono beh, adesso un coso non so come andrà tra qualche settimana, ma ti dicono beh, e qual è la sostanza dell'accordo di Parigi? Secondo me è la sostanza di un compromesso, perché il compromesso è la via per non fare la guerra in una condizione di questo genere, no? Chi non vuole compromessi finisce nella guerra, ok? Allora, è un compromesso in cui c'è un riconoscimento delle ragioni dell'altro, un riconoscimento naturalmente avvenuto tortuosamente, avvenuto col fatto che ciascuno ha messo poi in campo le proprie ragioni in maniera forte, però poi c'è stata la comprensione delle ragioni dell'altro, e questo compromesso è stato il rinunciare. Una rinuncia a testa. La popolazione sudtirolese ha rinunciato all'autodeterminazione, cioè ha rinunciato a chiedere lo spostamento dei confini. E questo bisogna dirlo qui, in una biblioteca di lingua italiana, perché spesso il mondo italiano, questo io l'ho visto, insomma noi non riusciamo a capirlo bene cosa vuol dire, l'Italia ha rinunciato alla sua piena sovranità su questa terra. Questo bisogna dirlo. Cioè questa rinuncia di sovranità, l'autonomia speciale qui, questo è stato il fatto che l'Italia per la pace, e in cambio del fatto che il mondo sudtirolese rinunciava allo spostamento a chiedere e a combattere per lo spostamento del confine, rinunciava alla sovranità normale, alla normale sovranità di uno Stato nazionale su un territorio. Va bene? Tra rinuncia di sovranità e rinuncia a questionare sui confini come via per la pace, no? È la sostanza dell'accordo di Parigi, e lì quelli ti capiscono tutto il mondo su questa cosa qua, ti capiscono ovunque ci sia un conflitto di confine. Io mi sono anche abbastanza battuto in questi anni, sia come giornalista che come politico, contro non la rivalutazione umana di coloro che in tedesco si chiamano i Bunzer, chiamiamoli così, i bombaroli, no? Perché soprattutto alcune figure della prima ondata di bombe, quella del 60, 61, sono figure che andrebbero fatte riconoscere a ognuno che non le conosce, perché sono persone che in una condizione estremamente dura, di grosso scontro, hanno ritenuto che ci fosse bisogno di quella che loro chiamavano un grande botto, uno. Qualcuno poi pensava che quello fosse il primo, ma guardate, la maggior parte di loro pensava che quello fosse il grande botto e basta. Per far muovere le cose, va bene? Sono biografie di grande umanità, no? Di persone che si sono scelte il traliccio da far saltare perché conoscevano bene la zona, Allora mi occupo io di quel traliccio perché io so quando farlo saltare in modo che non ci sia nessuno per strada e nessuno si faccia male, però non caschi neanche troppo su meli per distruggere meli del contadino accanto e così via. Va bene? Allora io ho grande simpatia per alcune biografie di queste, no? Anche se ho poca simpatia per altri che là dentro invece già pensavano alla guerriglia, eccetera. No? E che sono tra l'altro quelli che non sono finiti in galera, ma si sono salvati. Perché chi pensa alla guerriglia, diciamo, chi pensa a un botto solo non si protegge tanto. Quindi nel giro di 20 giorni furono messi tutti in galera. Chi invece già pensa alla guerriglia. Però ritengo che, uno, chi si mette sulla strada della violenza, una volta l'ha detto Magnago, non può che evocare nuova violenza. Questa è la prima questione. Cioè la strada della violenza, quando la prendi, è difficile fermarla. Uno. Due, che non è vero che le bombe ci hanno dato l'autonomia, perché la storia dell'autonomia e del Sud Tirolo non è stata una storia di guardie e ladri in un cortile di casa. È una grande storia. È stata una storia dove si sono, diciamo, incontrati grandi flussi del mondo. L'Austria che nel 55 riacquista l'indipendenza, la svolta degli anni 60 del centro-sinistra in Italia, di Kennedy e Khrushchev e lo scongelamento della cortina di ferro a est, cioè ci sono la liberazione dei movimenti di liberazione in Africa e la decolonizzazione in Africa. Cioè o si vede la storia del Sud Tirolo in questo contesto e allora si capisce anche che magari a Roma e anche a Bolzano c'era qualcuno che parlava l'italiano e che oggi dovrebbe essere onorato come padre dell'autonomia al pari di tante persone che parlano il tedesco. Va bene? O si capisce questo, oppure la storia dell'autonomia diventa una storia di guardie e ladri, di quelli furbi che sono riusciti a fottere lo Stato italiano, e non fa onore alla storia della nostra terra. Non fa onore questa logica. E che oggi, per, diciamo, un vogliamoci bene che, diciamo, nel partito di maggioranza è sempre la soluzione per recuperare tutto, ci sia qualcuno che accredita l'idea che le bombe ci abbiano portato l'autonomia, no? Si può, per recuperare queste persone, per aprire le porte, io sono per recuperare queste persone, io mi sono anche espresso con grosse polemiche per la grazia agli ultimi rimasti, sono vecchietti di 80 anni, lo so, però a un certo punto uno Stato, lo so che qualcuno gli salta il cuore, però a un certo punto uno Stato ha il diritto di chiudere una storia. Io l'ho detto alla signora Tiralongo per telefono e poi l'andrò a trovare, che capisco la sua condizione, però non si può tenere in ostaggio per sempre una popolazione, a un certo punto bisogna chiuderla una storia. E bisogna chiuderla, e visto che la battaglia è stata vinta da chi voleva l'autonomia e non da chi voleva l'autodeterminazione, perché quelli che mettevano le bombe volevano l'autodeterminazione, non volevano l'autonomia. Ecco, quindi non è vero. Ecco, allora, a me pare, pur con tutta, diciamo, la comprensione per queste biografie, e naturalmente con tutta la comprensione anche per i lutti che queste vicende hanno portato, però io credo che sia irresponsabile dire che l'autonomia è frutto delle bombe, perché questo vuol dire che l'autonomia è frutto della violenza e non dell'accordo di Parigi, per esempio, non di quello spirito dell'accordo di Parigi, e quindi vorrebbe dire che la nostra autonomia non è esportabile da nessuna parte. Se la nostra autonomia è frutto delle bombe, non è esempio da nessuna parte, perché di bombe in giro per il mondo ne cadono anche troppe. Quindi noi non possiamo andare in giro a dire l'insegnamento nostro è che dovete far saltare un po' di tralicci per piegare uno Stato. Se questo è il nostro insegnamento, questa è una cosa da irresponsabili. E secondo me questo viene detto da persone che cinicamente usano la storia, diciamo, a fini bassamente politici, magari per togliere acqua al mulino di certe forze concorrenti, ma che non fa onore, non fanno onore neanche a Magnago. L'autonomia l'ha portata quella cosa che è successa a Castelfirmiano nel 57. L'ha portata l'Austria che porta l'Italia a essere processata davanti all'ONU un anno prima delle bombe. Un anno prima delle bombe. E l'ha portata la mozione dell'ONU dove dice: uè, Italia, tu non stai rispettando l'accordo di Parigi perché questa autonomia regionale non funziona, devi rispettarla e sedetevi a un tavolo e discutete e cercate di avere una soluzione perché noi vi teniamo d'occhio. Questi sono i processi che hanno portato all'autonomia e non le bombe. Siccome sta diventando tardi, faccio ancora una domanda, ma poi ripeto, se qualcuno volesse intervenire, basta che... Sì, ecco, c'è un signore lì. Di essere un italiano quando viveva in Toscana. Mi ero definito così. È tanto logico. No? E venendo qui ha dovuto qualificarsi come italiano perché per ragioni ovvie. No? Allora vede, la questione è che per chi invece è nato qui come me e per tanti altri, no? Gli italiani, no? È differente, però solo se l'italiano che è nato qui poi riesce a imparare bene la lingua tedesca, ma non solo la lingua, gli usi, i costumi, tutto quanto ciò che possiede una cultura. Nel caso mio personale io sono stato diversi anni in Germania, quindi insomma il tedesco l'ho imparato bene. E poi tornando qua in Alto Adige non ho sentito nessun imbarazzo più nel confronto, nell'approccio con le persone di lingua tedesca, i sudtirolesi, anzi di essere pari merito o anzi addirittura di parlare addirittura il tedesco meglio dei sudtirolesi, che parlano tutti con un accento molto dialettale, così. Ecco, e quindi capisce, una questione che ci si può integrare anche perché i genitori nati qui o nel Trentino, io stesso qua, poi in Germania, poi insomma questa differenza non l'ho più poi notata. Prima però sì, c'era questo complesso e devo dirlo che lo hanno subito, lo hanno questo complesso molti italiani. Vediamo che anni fa qualcuno da Bolzano se n'è addirittura andato, ai tempi dei dinamitardi, quando diceva prima e anche dopo, no? Nel corso del tempo, qualche italiano ha mollato proprio, se n'è andato via da qui, si è sentito discriminato, né? E questa cosa avviene perché per un senso di inferiorità, di sentirsi inferiore, di sentirsi uno che non capisce il posto, non capisce la lingua e quindi non si può integrare. Questo non avviene invece se uno impara questa cosa. Così cosa succede? Quando uno ha imparato, si preoccupa quando incontra un italiano, quando si incontra con un sudtirolese, cerca di parlare in tedesco per forza perché vuole far capire che insomma il tedesco lo conosce. Inverso, il sudtirolese quando vede un italiano, pur sapendo che tu sai il tedesco, ti parla in italiano perché vuol sapere, vuol far sapere che anche lui sa l'italiano. Lei parlava, diceva prima che per conoscersi, per dire, per raccontare, bisogna parlarsi. Né? E quindi quando si raggiunge questo livello, allora qui in questa nostra terra, no, succede questo, che ognuno, avendo questo desiderio di parlare della lingua dell'altro, si diventa ambedue degli alloglotti, come per dire. No? Io parlo il tedesco perché farebbe piacere a lui. Lui parla italiano perché farebbe piacere a me, quindi ognuno in quel momento, quando io parlo tedesco, sarei un alloglota. Il tedesco quando parla italiano sarebbe anche un alloglota. Questo è un punto un po' così di attrito, un po' che rende un po' la differenza dei due gruppi etnici. Ma al di là di questo, insomma, devo dire che l'integrazione, questa immersione, come si diceva, è senz'altro possibile, però anche devo dire che due culture proprio completamente assieme, marciare proprio di pari passo assieme, è difficile perché ogni cultura ha tutta una sua logica, ha tutta una sua dinamica, e quindi ecco perché tante volte siamo separati, no? Siamo divisi, siamo, perché due culture assieme tanto anche differenti dopo tutto, tra tedeschi e italiani, che vivere assieme spesso trovano queste difficoltà per questioni, ma non linguistiche, per questioni proprio di tradizioni, di carattere della gente, e tutte queste cose. Io mi ricordo che lei, diciamo, di anni fa, quando lo sentì al telefono, che mi telefonò per via di certi articoli che avevo scritto sul Mattino. Sul Mattino? Ecco, mi ricordo, quando sentì... Era uno scrittore di lettere, lei. Sì. No, scrivevo articoli così di carattere sportivo, dello sport, naturalismo, così. Mi ricordo che gli chiesi: ma lei è toscano? Ho subito sentito l'accento. L'accento resta. Ecco. E però mi devo complimentare, come lei sa bene il tedesco. No, lei lo sa meglio di me. Bene, grazie. No, io volevo dire qualcosa su questo. La questione della lingua, no? Io tenderei a sdrammatizzarla. Cioè, è chiaro che la fortuna di vivere qui è di poter imparare, semplicemente passeggiando per strada, due lingue e esercitarle. Io mi ricordo, avendo studiato in Italia, diciamo così, l'inglese, quando in terza media, dopo 3 anni di inglese, mi mandarono in Inghilterra, non capivo una parola. Niente, perché io avevo studiato in inglese quello su libri, ma l'inglese vivo non l'avevo. Ecco, qui, insomma, ecco. Io sono convinto però di una cosa, che noi dobbiamo sdrammatizzare questa questione delle lingue. Sono convinto che le lingue europee sono in realtà una sola lingua, no? Cioè, hanno delle... se una lingua è data dalle sue strutture, no? Se una lingua è data dalle sue strutture e non dalle parole, le lingue europee hanno all'ingrosso, sono teorie linguistiche, non è che lo dico io, la stessa struttura, verbo, soggetto, predicato, flessioni, struttura della frase. Cioè, confrontiamo le lingue africane con le lingue, col cinese, no? Quindi noi parliamo in Europa tutti la stessa lingua. Voglio dire, la scuola italiana, la scuola superiore, è costruita sulla base di una riforma di tanti anni fa che ha come modello, diciamo, la scuola idealistica tedesca. Noi siamo tutti figli di Hegel, va bene? Più che dell'illuminismo. Perlomeno quelli hanno fatto il liceo, diciamo così, no? Ecco, per cui... io credo che vadano ridimensionate l'elemento di differenza, perché poi è chiaro, invece, io vengo dalla Toscana, si può trovare differenze tra paese e paese. Da noi ogni paese si considera unico, per questo mi sono trovato bene qui, perché ero già, diciamo, abbastanza, no? Siamo unici, non ci capisce nessuno, e quelli accanto meglio non frequentarli, no? Va bene. Io una volta ho fatto un Rundentisch alla Rai Senderbozna, alla Rai tedesca, c'era sulla questione, insomma, volevano l'italiano che un po', allora ero io. E c'era il comandante degli Schützen, un comandante degli Schützen della compagnia di Appiano, che naturalmente faceva di mestiere quello che faceva il duro, no? Poi siamo andati a bere e dice, sì, gli italiani, ma quelli di Termeno sono ancora peggio, capite? Ecco, e mi ha raccontato il fatto che quelli per me andavano tutte le sere ubriachi alla fontana di Appiano e ci facevano la pipì dentro, e qui c'era questa, e loro rispondevano, ecco. Cioè, io ridimensionerei la differenza, perché le differenze a volte, diciamo, si vogliono vedere, cioè si vogliono, se no, diciamo, c'è più differenza in questa fase epocale tra gli uomini e le donne, secondo me, che tra gli italiani e i tedeschi, per dire, no? Quella sì che è una differenza. no? E che è destinata per una fase storica, per un'epoca storica, ad accentuarsi. L'ultima cosa che volevo dire è questa. Io qui c'è un capitolo su, diciamo, il gruppo italiano, no? Visto le statistiche, eccetera. Ho scoperto una cosa, sono andato all'Astat, no? Ho fatto un po' di calcoli, ci sono tutte le tabelle, ho fatto un po' di calcoli perché volevo capire quanti emigravano verso l'Italia e quanti immigravano dall'Italia, dando per scontato che il 90% di questi sono persone, diciamo, in entrata e in uscita di quello che noi chiamiamo il gruppo italiano. Beh, ho scoperto che la immigrazione e l'emigrazione non è mai cessata. Io mi sentivo un po', volevo andare a capire se ero l'unico a essere arrivato recentemente. Invece il gruppo italiano è un gruppo mobile. Questa io l'ho chiamata poi la simmetria della convivenza. Il gruppo italiano è un gruppo mobile, come tutti i gruppi fortemente urbani. Anche milanesi sono un gruppo mobile, anche torinesi sono un gruppo mobile. Va bene? Noi siamo come quelli, va bene? Che si confrontano invece con un gruppo sudtirolese che non è che non è mobile, ma soprattutto negli ultimi 100 anni, 50 anni, per una serie di cause storiche, si è lentamente immobilizzato. Adesso si sta rimobilizzando, va bene? E quindi c'è questa simmetria. E io sono convinto che lo statuto d'autonomia è costruito presupponendo una popolazione immobile, una popolazione stabile. Per questo i meccanismi della nostra autonomia sono tutti, diciamo, fondati sulla tutela. Era giusto tutelare. Però la tutela vuol dire la separazione, vuol dire la tutela. La tutela si sa cosa vuol dire, dalle contaminazioni, dal, no? Mentre, ma questo però è un bisogno di un gruppo stabile a essere tutelato. Mentre un gruppo mobile c'ha un altro bisogno, l'integrazione. Meccanismi rapidi di integrazione, rapidi di integrazione. Se una famiglia arriva da Roma, tutti i membri di quella famiglia devono avere un'offerta di integrazione rapida. I più piccoli che possono imparare la lingua rapidamente, un'offerta scolastica di integrazione rapida. E non si fa altro che mescolandosi. L'integrazione rapida. E i grandi, offerte di integrazione più immediate, ma che in qualche modo diano loro dignità, ma anche li facciano capire rapidamente che cos'è questa terra. E questo, guardate, è un problema che moltiplicato per 100 ce l'abbiamo con gli stranieri e con gli immigrati oggi, no? È lo stesso problema. Io ho l'impressione che noi, che il limite, il vero limite della nostra storia è che siamo poco capaci di integrazione. No, che il nostro sistema autonomistico, fondato all'inizio sulla iniziale necessità di tutelare, abbia tralasciato il tema dell'integrazione, visto quasi come la mischkultur, no? Ci si mescola. Non è questo il problema. Il problema è l'integrazione non è annullare l'altro, ma è integrarlo e rendere dinamica la cosa. Per cui io credo che la prospettiva dell'autonomia sia quella di sviluppare meccanismi di integrazione e demolire il più possibile, tranne freni d'emergenza, i meccanismi di segregazione. L'opposto di integrazione è, diciamo, lo dico neutralmente, questo qui naturalmente è una parolaccia, segregazione, ma diciamo di tutela attraverso scomposizione e divisione, no? Questa è secondo me la sfida dei prossimi anni e credo che ci siano forze in tutte le lingue che questa cosa l'hanno capita, anche se dovrebbero avere un po' più di fiducia e di coraggio, perché io in consiglio provinciale vedo tutti i giorni quanto è facile innescare la spirale etnica. Cioè basta lanciare una parola e sembra che ribolla il sangue a tutti. No? Sembra che ribolla. Quando io mi sono permesso di dire che mi sembrava una stupidaggine sparare in aria in questa fase di bombe per festeggiare il compleanno, no? Mi è venuta addosso il Consiglio Provinciale. Però il meccanismo è stato proprio di spirale, cioè sono partiti quelli della destra tedesca, i Freiheitlichen e l'Union für Südtirol. Poi la destra dentro l'SVP gli è andata dietro, E poi alla fine tutti devono andargli dietro, no? Allora tutti devono tirare sulla bandiera. Poi è arrivato Durnwalder che non c'era neanche, non sapeva neanche, si è arrabbiato, mi ha gridato addosso, eccetera. Che quello è anche un uomo grosso con la voce grossa, a me mi fa anche paura. Va bene. Ma voi dovete sapere che il giorno dopo, che eravamo a una cerimonia, lui mi si è seduto accanto e ha detto: beh, was ist gestern passiert in Landtag? Beh, che diavolo è successo allora nell'Landtag? Ma come è successo? Mi hai gridato addosso, lo sapevi cosa è successo? No, a me mi hanno chiamato, mi hanno detto che tu ce l'avevi con me il mio compleanno. Questo è successo. Queste parole a me personalmente mi riportano a quello che si diceva all'inizio, cioè che viviamo in una realtà più complessa di come appare o di come ce la vogliamo descrivere. Una realtà che non si può inquadrare nelle categorie molto banali che abbiamo in mano quotidianamente, e quindi una realtà da studiare, da leggere, da scoprire ogni giorno di più, come se, diciamo così, ogni giorno noi stessi venissimo da fuori, come degli etruschi, a vedere questa realtà con occhi appunto distaccati, se vogliamo ingenui. Allora, per finire vi leggo un pezzettino, che questo è il massimo del coso, perché è una combinazione pazzesca, però ho avuto fortuna. Questo è il massimo dell'esterno e dell'interno, insomma, sì. Fa parte di questo capitolo il Calicanto di Magnago, spiega il compleanno di Magnago, eccetera, eccetera, ma questo lasciamo perdere. Ma in questo libro ho aggiunto un inedito che è un post scriptum, che era una specie di segreto che mi tenevo. Ho sempre pensato, beh, lo scrivo, adesso è brutto dirlo, però il giornalismo è così, lo scrivo quando muore Magnago. Perché uno degli incubi del giornalista è quando muore qualcuno, no? Che devi nel giro di 3 ore scrivere una biografia e tutte queste cose. Poi sono diventato consigliere provinciale, quindi ho pensato che forse cioè non ce la faceva a scriverlo come giornalista, l'ho scritto in questo libro. Post scriptum, perché è la fine del capitolo. Voglio approfittare di questo capitolo per riferire un episodio della vita di Magnago che non conosce nessuno. È il racconto di quando Magnago venne al mio paese, Volterra, in Toscana. Credo che solo l'autista che ce lo portò conosca questa storia. Prima però devo dire in quali circostanze la venne a sapere. Fu nel novembre del 93. Il settimanale FF, per il quale lavoravo, ebbe l'idea di spedirmi con l'Obman onorario in un suo tour elettorale in Trentino. Avrei viaggiato tutto il giorno nella sua macchina per poi raccontare sul giornale l'impatto dei nonesi col padre dell'Os von Trient. Così fu. Viaggiammo da Rumo a Taio, da Cles a Castelfondo. Seduto accanto a me, il vecchio Silvius indagava di che pasta fossi fatto. Il patto stretto all'inizio del viaggio di parlare solo in tedesco m'aveva fatto entrare nelle sue grazie. Mi domandò come ero arrivato a Bolzano, da dove venivo. Gli dissi Volterra, Toscana, e lui subito si illuminò. Ci sono stato a Volterra, mi disse, e aggiunse, non me lo scorderò mai. Era tra il 66 e il 67, non si ricordava bene il giorno esatto, ma il clima non poteva dimenticarlo. Quelli erano gli anni più sanguinosi del terrorismo in Sud Tirolo. Nell'estate del 66 erano rimasti uccisi in 3 diversi attentati ben 6 finanzieri, tra Vizze, la Valcasies e la Malgasasso al Brennero. Successivamente, nel giugno del 67, a Cima Vallona, diverse mine a strappo avevano ucciso 3 carabinieri e un alpino. Erano gli anni, mi raccontava Magnago, in cui tutta Italia, a dire su tirolese, equivaleva a dire terrorista. Eravamo isolati, insultati, guardati con astio e circondati dal gelo. Per questo, quando da Volterra, Toscana, gli arrivò l'invito, il primo che giungeva da sotto Salorno, a tenere una conferenza in comune sulla questione altoatesina, Magnago non se lo fece dire 2 volte. Prese macchina e autista e partì. Ed ecco, quasi letteralmente, il racconto di Magnago. Arrivai alla sera in quella piazza dei Priori, che ha un palazzo comunale che pare identico a Firenze. C'era una gran folla da aspettarmi. Gente in piazza, gente lungo le scale del palazzo, gente nell'antica sala affrescata del comune. Al gran tavolo c'era il sindaco, in fascia tricolore, che mi accolse, mi presentò e mi lasciò subito la parola. Cominciai a parlare delle ingiustizie fatte dall'Italia ai sudtirolesi, delle repressioni dei carabinieri e della polizia, della manifestazione di popolo a Castel Firmiano, dell'arroganza dello Stato italiano. Insomma, a quegli italiani non gliene risparmiamo nemmeno una. Ma ecco la sorpresa. Ogni volta che parlavo male del governo, quelli lì applaudivano. Parlavo male della polizia e quelli giù un applauso. Attaccavo i rastrellamenti dell'esercito e quelli applaudivano ancora più forte. Io gridavo che non ci saremmo mai piegati, dovessimo lottare con le unghie e con i denti, e quelli si spellavano le mani e uno addirittura mi gridò: bravi, fatelo vedere a questo governo di farabutti. Ero stupito. Dicevo che l'Italia democratica aveva continuato nella politica fascista di italianizzazione e quelli rispondevano: anche noi abbiamo preso le bastonate della cellula di Scelba. Alla fine del mio discorso fui portato in trionfo come un eroe. Il sindaco mi abbracciò e mi espresse la solidarietà sua e della sua città. Io ero stupefatto e un po' stordito. Non mi aspettavo una simile accoglienza, mentre tutti i giornali italiani ci dipingevano come terroristi e Roma aveva occupato la provincia con l'esercito. Non mi capacitavo di un'accoglienza del genere, in Italia, da parte di italiani. Così, prima di ripartire in macchina, chiesi: ma chi diavolo era tutta quella gente? Quel sindaco, quei consiglieri comunali che mi ascoltavano e mi applaudivano. E allora lo seppi, erano tutti comunisti. Allora, ringrazio Riccardo Dello Sbarba, Paolo Valente, ringrazio tutti quanti voi. Vi invito anche a guardare la nostra bibliografia, oltre che a vedere il libro, e ci vediamo la prossima settimana. Grazie intanto.